Chi è l'uomo ipocrita? Non sono certamente io e neppure tu. L'altro. Il dizionario definisce ipocrita chi parla o agisce con ipocrisia, fingendo virtù, buone qualità, buoni sentimenti che non ha, ostentando falsa devozione o amicizia, o dissimulando le proprie qualità negative, i propri sentimenti di avversione e di malanimo, sia abitualmente per carattere sia in particolari circostanze, e sempre al fine di ingannare gli altri o di guadagnarsene il favore. Una descrizione, questa, abbastanza colorita ma comunque illustrante, che l'uomo ipocrita è una delle peggiori specie esistenti sulla Terra. In effetti non si potrebbe arrecare o ricevere offesa peggiore dell'essere definiti una persona ipocrita, dato che tale epiteto implica necessariamente l'immagine di un essere umano falso, bugiardo, doppiogiochista, con tante facce intercambiabili a seconda delle circostanze, con atteggiamenti studiati e mirati al raggiungimento di uno scopo, con una mente calcolatrice pronta a oltrepassare qualunque trincio di coerenza, di correttezza e di sincerità. Per una curiosità che non è solo curiosità, il termine ipocrisia deriva di celle greco hypocrites, che originariamente significava colui che risponde, con particolare riferimento ad un attore che, in teatro, rispondeva alle battute di un altro attore. Quindi significò attore, cioè chi recitava una parte o interpretava un personaggio che in realtà non era. Di qui il senso di persona falsa, che vuole apparire quello che in realtà non è. Un cattolico obiettivo ha fatto notare che l'ipocrisia è la crosta ingiallita che riveste tanti fedeli religiosi cattolici, rendendoli non spiritualmente liberi, ma semplicemente dei tristi, mesti bigotti, apparentemente sofferenti ma in realtà soddisfatti del proprio bigottismo, che li rende amabili ai parroci, i quali, a loro volta, possono avvalersi incondizionatamente delle loro presenza fissa alle riunioni, alle processioni e pellegrinaggi, e possono contare sul loro sostegno morale ed economico. Un rivestimento che troviamo non solo nel cattolicesimo, ma in tutte le religioni, senza escludere neppure quella protestante, perché mentre i protestanti secoli fa erano pronti a morire pur di confessare la loro incondizionata fede nella Scrittura quale parola di Dio e in Cristo quale unico Signore, ora per molti di loro non è più così. È sorprendente quanto Gesù abbia parlato dell'uomo ipocrita piuttosto che delle altre tipologie umane. Un credente che ha posto fede in Cristo non può quindi ignorarne l'insegnamento, poiché senza un'accurata conoscenza di chi sia un ipocrita potrebbe rischiare di essere tale a sua insaputa. Per prima cosa, secondo Gesù, l'uomo ipocrita non è necessariamente un malvagio o un avanzo di galera, e neppure un uomo burbero o antipatico e odioso, ma generalmente l'ipocrita è un uomo per bene, casomai religioso e devoto, che esprime qualità positive abbastanza evidenti. Non a caso Gesù disse ai religiosi del suo tempo che osservavano la volontà di Dio: guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché rassomigliate a sepolcri imbiancati, i quali di fuori appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putredine. Così anche voi di fuori apparite giusti davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Matteo 23.2728. Per comprendere la sentenza di Gesù è necessario conoscere chi sono gli scribi e i farisei prima di esaminare la loro ipocrisia. Gli scribi erano degli scrivani pubblici che scrivevano sotto dettatura, e inoltre essi si dedicavano allo studio e all'interpretazione della legge, la quale era allo stesso tempo civile e religiosa. La insegnavano, dettandone la morale. I farisei appartenevano anch'essi alla categoria degli scribi. L'aspetto fondamentale del loro movimento era cercare, mediante l'ubbidienza alla legge, di essere l'espressione della comunità vera, del vero popolo di Dio che si preparava per la venuta del Messia. Essi erano d'esempio alla gente nell'osservanza della legge, in quanto mettevano tassativamente in pratica le rigide prescrizioni sulla purificazione, e da qui il termine fariseo, cioè separato. I farisei presentavano come obbligatoria la loro spiegazione casistica della legge, la quale portava ad assurde e inumane decisioni, quali per esempio se era lecito di sabato mangiare un uovo fatto dalla gallina o se guarire una persona. La loro disumana interpretazione della volontà di Dio ha portato Gesù ad affermare: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché calcolate la decima della menta, dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste cose bisogna praticare senza trascurare le altre». Matteo 23.23. Secondo Gesù, l'uomo ipocrita è chi vive e pretende la rigida osservanza della legge senza osservare il vero motivo per la quale è stata data. L'ipocrita è colui che vuole apparire al prossimo come in realtà non è. Per questo Gesù si rivolge ai rispettabili religiosi, i sacerdoti onorati dal popolo, con le seguenti parole: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno della coppa e del piatto, mentre l'interno è pieno di rapina e di intemperanza». Matteo 23.25. L'ipocrita per Gesù è dunque chi ha un comportamento ineccepibile e formale in merito alle regole morali pubbliche, ma non lascia che queste regole mettano in discussione i principi etici nel suo intimo. E perché questo principio diabolico dell'ipocrita sia compreso fino in fondo, è necessario calare questa verità nel nostro vivere quotidiano. Innanzitutto, ciò che Gesù ha detto non è rivolto a persone irreligiose come gli atei, e neppure a chi professa una qualsiasi religione. Gesù si è rivolto a chi osserva i comandamenti di Dio. Perciò si è rivolto a tutti quelli che si definiscono cristiani. Inoltre, Gesù si è rivolto a dei sacerdoti, e di sacerdoti oggi ce ne sono parecchi nella religione cattolica romana. Perciò, se l'odioso peccato e il terribile atteggiamento dell'ipocrisia è preoccupante per chi si definisce cristiano, lo è molto di più in chi esercita la professione del sacerdote. In effetti, non sono pochi gli episodi nei quali sacerdoti cattolici si soffermano a giudicare nei fedeli cose minime, mentre non si preoccupano delle loro inclinazioni di intemperanza o di rapina. Di tanto in tanto la cronaca registra sacerdoti che sono omosessuali, sacerdoti che hanno relazioni con donne sposate o che hanno imbrogliato il prossimo negli affari. Ha fatto notizia quel sacerdote accusato dalla Perpetua di averlo tradito con un'altra donna, come pure ha fatto notizia nel campo protestante l'ecclesiastico omosessuale che è stato denunciato da un giovane perché non gli era fedele in campo sessuale. Non a caso Gesù ha rivolto parole dure ai religiosi, parole che devono scuotere ogni coscienza. «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete come i sepolcri che non si vedono, e gli uomini vi camminano sopra senza accorgersene». Luca 11.44. Occorre riconoscere che in genere i sepolcri sono belli, ordinati e puliti, e al tempo di Gesù era possibile anche camminare sopra alcuni di essi, senza rendersene conto. Così anche oggi le persone non si rendono conto che, agli occhi di Dio, nel cuore della maggioranza degli uomini religiosi alberga una disgustosa e ipocrita malvagità. Una disgustosa malvagità che è alla base della loro vita morale. E solo mediante una rivelazione dello Spirito Santo, essi saranno in grado di rifiutare ogni tipo di ipocrisia. Quale benefico insegnamento si può trarre dagli uomini ipocriti? Che insegnamento possiamo ricevere da chi finge di avere virtù, buone qualità o buoni sentimenti? Innanzitutto, avere un vera avversione per tutto ciò che non corrisponde alla verità e che è teso a far sembrare quello che non si è. Infatti, l'ipocrisia consapevole e studiata ci spinge a voler apparire al prossimo come in realtà sappiamo di non essere, e a costo di sacrificare ogni slancio spontaneo e naturale pur di non venire meno ad un ruolo che consideriamo consono all'ambiente nel quale viviamo, fatto di atteggiamenti e frasi studiate che nulla o quasi fanno intravedere chi siamo in realtà. Essere leali e onesti nei fatti e nelle parole è uno degli elementi di quell'amore che è senza ipocrisia, che detesta il male e si attiene fermamente al bene. Romani 12.9. Inoltre, se l'ipocrita con il suo comportamento riceve già il suo premio su questa terra, quanto più chi ama Cristo Gesù e la verità cercherà il vero premio che non gli sarà mai tolto. Sembra strano che gli ipocriti ricevano un premio, nessuno l'avrebbe detto, se non fosse stato Gesù a dichiararlo. Matteo 6.2. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini, in verità vi dico, che essi hanno già ricevuto il loro premio. Matteo 6:5 E quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Matteo 6:16 Ora, quando digiunate, non siate mesti d'aspetto come gli ipocriti, perché essi si sfigurano la faccia per mostrare agli uomini che digiunano. In effetti, il premio degli ipocriti è proprio quello di ricevere lode e stima per finte qualità, e chi è soddisfatto di simili apprezzamenti è anche degno di andare in un luogo dove manca la luce divina della sincerità, dove ci sarà il pianto e lo stridor di denti, e cioè all'inferno. Matteo 24:5-1 L'ipocrisia è talmente naturale per le nostre inclinazioni umane che anche uomini come l'Apostolo Pietro e Barnaba vi si sono incappati. Galati 2:1-3 E solo un'incondizionata avversione e accettazione delle conseguenze di amare la sincerità sopra ad ogni cosa può darci la grazia di partecipare alle sofferenze della verità e di ricevere il vero premio eterno. Sta a noi scegliere. Dicembre 2006 Ellero